Madre, io vorrei abitare insieme a te, conoscerti di più per amarti, guardare gli occhi tuoi e vedere il paradiso, la gioia che c'è in te è il figlio tuo Gesù. Luce sei per me, nel cuore e nell'anima, luce che dona pace, forza dentro me, nella gioia di vivere alla presenza di Dio. Sei nella mia vita, nella mia preghiera, ti chiedo madre, resta con me. Sei nella mia vita, nella mia preghiera, ti chiedo madre, resta con me. Madre, io vorrei dimorare nel tuo cuore, amare il nostro Dio con la purezza tua, stringermi forte a te, respirare la parola, donna umile dell'ascolto. Luce sei per me, nel cuore e nell'anima, luce che dona pace, forza dentro me, nella gioia di vivere alla presenza di Dio. Sei nella mia vita, luce, nella mia preghiera, vita, ti chiedo madre, oh madre, resta con me. Sei nella mia vita, luce, nella mia preghiera, vita, ti chiedo madre, oh madre, resta con me. Resta con me. Madre, io vorrei avere la tua fede, accettare tutto da Dio senza paura, pregare come te, con semplicità di cuore, portare il figlio tuo a ogni uomo. Luce sei per me, nel cuore e nell'anima, luce che dona pace, forza dentro me, nella gioia di vivere alla presenza di Dio. Sei nella mia vita, nella mia preghiera, ti chiedo madre, oh madre, resta con me. Sei nella mia vita, nella mia preghiera ti chiedo, madre, resta con me.